E allora benvenuti a tutti e a tutte ad Entropia Massima. Come ogni lunedì sera siamo qui a parlare di trasformazioni che generano una grande entropia, un'entropia massima appunto. Oggi è la volta del quarto tecnologico e vi parliamo di intelligenza artificiale come di consueto. Un saluto particolare va a chi ci ascolta dal carcere o privato, privata della propria libertà personale. Vi ricordo come sempre il numero per intervenire: 06 49 17 50. E Radio Onda Rossa è la radio che non campa d'aria, abbiamo bisogno costantemente del vostro supporto, quindi sottoscrivete. Ed eccoci allora in diretta per questa nuova puntata di Entropia Massima, la prima della stagione per quanto riguarda il ciclo tecnologico e l'intelligenza artificiale. E oggi sono qui a parlarvi di un tema parecchio filosofico. Parliamo di libertà. Non è mai facile parlare di libertà. Facciamolo iniziando innanzitutto da quello che è il pensiero cosiddetto liberale, liberismo, neoliberismo. Diciamo pensiero liberale senza allargarci troppo. Ecco, il pensiero liberale ha effettuato una narrazione della libertà, come ben sappiamo, no? Però è anche vero che c'è un pilastro in questo pensiero che è un po' comune sia a destra che a sinistra, e cioè che qualunque autorità deriva dal libero arbitrio degli esseri umani, di individui. E questi individui esercitano questa autorità attraverso il consenso su posizioni che vengono espresse a partire da scelte che vengono fatte, da desideri che si hanno, da sentimenti in ultima analisi. E quindi il pensiero liberale ci dice che i votanti hanno sempre ragione, no? Quello che esce dalle elezioni è ciò che è giusto, perché dei liberi individui hanno espresso quel pensiero, ci dicono che il cliente ha sempre ragione, perché se il cliente ha scelto quel prodotto allora evidentemente ci sarà un motivo, e qualunque esso sia non importa, quella scelta è la scelta giusta. E il pensiero liberale ci dice: ascolta te stesso, devi essere sincero con te stesso, devi seguire il tuo cuore. Tutto questo genere di frasi sono una enorme narrazione che ha edificato anche la nostra società attuale, no? E neanche da troppi anni, a ben vedere, come vedremo durante il seguito della trasmissione. Per esempio, due campioni del neoliberismo come Reagan e Thatcher parlavano di libertà economica, ma dicevano anche che questa libertà economica doveva essere necessariamente unita alle libertà individuali. In generale quindi c'è una sorta di accordo. Per esempio, se pensiamo alla sinistra, no? Pensiamo alla sinistra, in genere si identifica con persone che la pensano in modo favorevole, non so, al matrimonio gay, piuttosto che al controllo delle armi, alla riduzione quindi delle armi, alla libertà di aborto, temi molto molto grandi, no? Mainstream, che riguardano comunque il pensiero di sinistra e non quello di destra. Però in generale sia destra che sinistra, quando si parla di autorità politica, alla fine arrivano a questa triade: sentimenti, scelta e libero arbitrio. La pensano allo stesso modo. E vediamo un po' che cosa può portare all'estremizzazione di questo pensiero. Per esempio, analizziamo il caso Brexit. Quando David Cameron doveva stabilire se il Regno Unito dovesse ancora far parte dell'Unione Europea o meno, non lo ha chiesto alla regina Elisabetta II, quindi a un potere monarchico, non l'ha chiesto all'arcivescovo di Canterbury, quindi diciamo un potere religioso, non l'ha chiesto neanche a dei professori di Oxford e Cambridge, pure avrebbe potuto, ce li avrebbe lì a portata di mano, no, non l'ha chiesto, lo ha chiesto alle persone, ha indetto un referendum, quindi ha estremizzato questo concetto, non l'ha neanche chiesto a dei membri del Parlamento come si fa in genere, l'ha chiesto proprio a delle persone. E che cosa è stato chiesto a queste persone? È stato chiesto: ma tu che cosa senti a proposito della Brexit? Beh, forse abbiamo un po' esagerato, magari gli avranno chiesto che cosa pensi, non che cosa senti, ma siamo sicuri che ci sia troppa differenza tra queste due parole, pensare e sentire? In generale i referendum, specialmente quando trattano dei temi così delicati, ma in realtà è vero sempre, in quanto il referendum è tale per cui devo scegliere fra un sì o un no, una scelta secca, e soprattutto se questo referendum non viene dopo un periodo di riflessione meditata a livello pubblico con dibattiti, approfondimenti o studio, ma se viene in maniera un po' rapida, senza tutta la parte preparatoria. Ebbene, un referendum in genere ci parla di sentimenti, non ci parla di razionalità. E quindi arriviamo a dire, insieme a Yuval Harari, che come sapete è uno degli autori che noi stiamo utilizzando in questi anni, che utilizzeremo anche quest'anno, in particolare durante questa puntata, arriviamo a dire che la democrazia in realtà non è una questione di scelte razionali, ma è appunto una questione di sentimenti. Questo è tanto più vero quando si tratta appunto di decidere su delle questioni molto specifiche che riguardano l'economia e la politica, dove ci sono degli specialisti che probabilmente potrebbero effettuare delle scelte razionali, e certamente buttare tale scelta nel mucchio non è esattamente una decisione razionale, e bisogna fare i conti con il fatto che poi le persone esprimeranno quelli che sono i propri sentimenti, non altro hanno le persone che non si occupano di queste questioni per esprimersi. Richard Dawkins, che è un biologo inglese, ha detto che non si sarebbe mai dovuto chiedere alle persone di esprimersi su questo argomento, incluso lui stesso, quindi non sta facendo un discorso di persone più colte o meno colte di altre, essendo lui probabilmente appartenente a una cerchia di persone colte, essendo un famoso biologo. Ha detto: no, guarda, neanche a me me lo dovevi chiedere. Che cosa facciamo allora? Votiamo per decidere se Einstein ha ragione, votiamo per decidere dove l'aereo deve atterrare, dice Dawkins in maniera provocatoria. Quindi con questo ci sta dicendo: probabilmente sono questioni troppo complesse per essere lasciate al cosiddetto libero arbitrio, in base al quale l'espressione di ognuno conta esattamente come quella di qualunque altro. E quindi cosa succede? Che se si riesce a manipolare i sentimenti umani, il cuore se volete, si possono ottenere dei risultati che interessano a qualcuno e non a qualcun altro, quindi si può interferire con il voto. Questo per esempio si può fare con la tecnologia, e allora, che sia da Pechino o da San Francisco, per dire due posti dove la tecnologia è molto forte nel mondo, esistono delle abilità tecnologiche per manipolare i cuori umani. Ma allora, parlando ancora della libera scelta, del libero arbitrio e degli individui, noi oggi siamo abituati a pensare che essa sia una cosa del tutto naturale, ma in realtà non è affatto naturale e non è neanche molto antica, a ben vedere, ha qualche secolo di vita. Tempo fa, diciamo 500 anni fa, c'era la legge divina, e quindi si diceva che bisogna santificare la parola di Dio e non quella dell'uomo, e questo era accettato da tutti, era la norma, era ciò che informava le società di quel periodo. Come si riusciva a convincere le persone che bisognasse santificare la parola di Dio? Beh, basta costruire delle mitologie religiose, ed è quello che è la religione. Ancora oggi in realtà questa religione fa sentire il suo peso, come sappiamo bene, però è stata una bella botta che l'abbiamo data, diciamo, no? E quindi con il pensiero liberale ormai questo rimane più nel fondo, insomma, no? E allora oggi come si fa a, diciamo, a convincerci tutti che esiste il libero arbitrio e che dobbiamo dar retta a ciò che l'individuo liberamente esprime? Beh, lo si fa raccontando una storia, ancora una volta. E, se non che abbiamo, diciamo, nel fondo un soggetto particolare che si chiama Big Data, come sapete, che abbiamo parlato tante volte in questa trasmissione, no? Quindi gli algoritmi di Big Data, quelli che ci consentono di prendere tanti dati delle persone e da questi tirar fuori delle nuove verità prima non note, e quindi poter manipolare anche le persone attraverso determinate azioni, come vedremo. E questo va a minare direttamente la libertà individuale dell'uomo. I nostri sentimenti, in realtà, da un punto di vista scientifico, almeno fino adesso, non sono unici, non sono una qualità unica e spirituale dell'essere umano, non riflettono nessun libero arbitrio. Questo è quello che ci dice la scienza. Come sapete, la scienza oggi dice una cosa, domani qualcun altro potrebbe dimostrare che questa cosa non è vera, e quindi ben venga chi lo riesce a dimostrare. Però al momento nessuno è riuscito a dimostrare che questo non sia vero. E quindi ciò che è vero oggi nel pensiero scientifico è che i sentimenti non riflettono alcun libero arbitrio, non c'è evidenza di questo. E che cosa sono allora i sentimenti, sempre per la scienza, no? Rifacciamoci alla scienza, possibilmente, no? Visto che è un metodo che noi abbiamo adottato tante volte in questa trasmissione e ritengo anche in generale, no? Nell'approccio di questa radio. I sentimenti sono dei, ci dice la scienza, sono dei meccanismi biochimici. Ecco, tutto qua. Non sono altro che dei meccanismi biochimici. Questi meccanismi sono utilizzati dai mammiferi, quindi anche da Homo sapiens, noi, e sono utilizzati peraltro anche dagli uccelli, e servono per calcolare delle probabilità. Probabilità di che cosa? Di sopravvivere e di riprodursi. Questo è il fine ultimo del mammifero e dell'uccello. E per farlo l'individuo utilizza questi meccanismi biochimici, quindi non c'è nessuna base di intuizione, di ispirazione o di libertà, è un semplice calcolo. Quando dobbiamo prendere delle decisioni ci sono milioni di neuroni che entrano in azione scambiando tra di loro informazioni in un tempo, in una frazione di secondo. Noi vediamo un serpente e il risultato di questo movimento di neuroni ci dice che probabilmente esiste la probabilità di morire e quindi sarà meglio tenersi alla larga. Questo è il modo in cui funzionano i sentimenti umani, funziona la mente umana, sempre per la scienza. Così come per esempio l'attrazione sessuale non è altro che un calcolo di probabilità su quanto possa avere successo una determinata unione, no? Stringere un legame con qualcuno, quanto può avere successo stringere un legame con qualcuno, oppure quanto potrà legare socialmente, potrà legarci socialmente tramite questo qualcuno a un contesto più grande. Questo è il sesso. Beh, ma ci sono anche degli altri sentimenti più complessi che non hanno a che vedere con la sopravvivenza o con la riproduzione, per esempio l'indignazione, la colpa, il perdono. Sentimenti di questo genere sono oggettivamente sentimenti più complessi. Come si mette allora qui la faccenda? Beh, saranno anche questi dei meccanismi neurali, ma questi meccanismi neurali entrano in azione in quanto si sono evoluti nell'arco di milioni di anni negli individui, nei mammiferi, in particolare in Homo sapiens, per abilitare la cosiddetta cooperazione di gruppo. Cioè, questo è uno dei temi importanti, no, di Yuval Harari, che più volte abbiamo ripreso in queste trasmissioni. Qual è, visto che l'essere umano ha sempre questa fissazione di capire qual è la differenza fra lui e gli altri animali, se ne inventa di tutti i colori, no? Fino a rischiare di diventare veramente ridicolo, no? Nelle cose che si possono inventare. Si dovrebbe fare una trasmissione solo su quanto l'essere umano si rende ridicolo nel cercare di diciamo di tracciare un confine fra sé e gli altri esseri umani. Però una cosa la possiamo dire, che sicuramente Homo sapiens è riuscito nell'arco di centinaia di migliaia di anni ad abilitare la cooperazione di gruppo, cioè è riuscito a cooperare fra grandissimi numeri di individui. Oggi siamo 7 miliardi, siamo in un mondo globalizzato, possiamo dire che ci sono miliardi di persone che cooperano in qualche modo tra di loro per raggiungere degli obiettivi maggiori. Ecco, probabilmente questo è una cosa che fa parte solo di Homo sapiens, può darsi, ad ogni modo è così che funziona. E quindi che cosa diciamo? Dov'è la razionalità? Beh, la razionalità è una, quella che Harari chiama una razionalità evolutiva, cioè ciò che è razionale è ciò che l'evoluzione ha detto che è razionale, nel senso che nell'arco di milioni di anni c'è stata questa evoluzione, no, di questi meccanismi neurali che hanno abilitato la cooperazione, e questo è risultato da un punto di vista evoluzionistico favorevole, quindi ha fatto in modo che l'uomo potesse andare avanti. Quindi non parliamo di razionalità nell'individuo, parliamo di razionalità evolutiva, no, come specie, se vogliamo. Perché noi allora pensiamo di avere il libero arbitrio, pensiamo di avere dei sentimenti che contano, pensiamo di avere anche delle qualità forse spirituali, no? Perché la nostra soglia di consapevolezza non ci consente di vedere che il calcolo sta andando avanti, cioè mentre noi calcoliamo, mentre i nostri neuroni calcolano, noi non li vediamo questi neuroni, non sappiamo cosa stanno facendo, e quindi e poi lo fanno in un tempo, in una frazione di secondo, quindi concludiamo che si deve trattare di qualche altra cosa. Come chiamiamo questa cosa? La chiamiamo libero arbitrio. Ora stiamo un po' esagerando, chiaramente anche provocando, diciamo però anche qualcosa. In genere le narrazioni servono per far funzionare le società. Una società dove la narrazione è la legge divina comunque funzionava, e funzionava anche abbastanza bene, ha funzionato bene per alcuni periodi, in altri meno, fino poi a determinare la sua disfatta e la sua sostituzione con un altro tipo di società. Però quel tipo di narrazione era funzionale al funzionamento di una certa società. Ebbene, anche la narrazione del libero arbitrio è funzionale, come altre narrazioni, al portare avanti una società in un certo modo. E quindi non è sbagliato, no, pensare che noi abbiamo un libero arbitrio, anzi ha un senso molto pratico e molto buono, perché attraverso questo metodo noi riusciamo a decidere dove studiare, chi sposare o quale partito votare. E soprattutto c'è un altro elemento importante che diciamo fotografa la nostra diciamo il nostro modo di vivere, che è la nostra società, più che altro, che non ci sono dei sistemi esterni che ci conoscono meglio di quanto noi conosciamo noi stessi. Questa è un assunto importante della nostra società. L'Inquisizione spagnola, il KGB o quel che volete, che ci hanno spiato per secoli, non erano in grado di conoscere cosa c'era dentro di noi a livello biologico, quali sono le forze interiori che si muovono dentro di noi. Quindi noi potevamo avere dei segreti, e questi segreti facevano sì che rimaneva sempre diciamo una possibilità per l'essere umano, quello di esercitare la propria individualità nel segreto, no? Senza che una forza esterna potesse andare a toccare, a leggere le cose che stanno dentro di noi, o addirittura a manipolarle. Ecco, oggi però qualcosa sta succedendo. Gli algoritmi per computer possono rapidamente fare cose del genere, e quindi possono arrivare a darci dei consigli molto meglio di quanto possano fare i sentimenti umani. E quindi noi siamo passati dall'Inquisizione spagnola o il Soviet KGB, siamo passati a Google e Baidu, e questo esporrà il libero arbitrio alla evidenza che si tratta di un mito, e da lì cominceranno una serie di problemi che noi ci proponiamo di affrontare con queste riflessioni che facciamo insieme a voi, e certamente non sono facili. Cos'è quindi questa deflagrando a livello tecnologico? Qual è la ricetta che ci sta portando a questo? Beh, sono due le discipline scientifiche che stanno fiorendo: da un lato le biotecnologie, dall'altro i computer. Queste due tecnologie fuse insieme stanno veramente cambiando il modo in cui il mondo andrà avanti. E quindi praticamente saranno in grado sempre di più, chi userà queste tecnologie sarà in grado sempre di più di decifrare i misteri del cervello umano, perché potrà avere potenza di processamento molto elevata, e quindi potrà processare tantissimi dati, e questo potrà consentire a chi usa queste tecnologie di controllarci o anche manipolarci. Soprattutto però una cosa noi la possiamo dire, che con queste tecnologie si possono capire i nostri sentimenti addirittura meglio di quello che un individuo può fare. Sembra incredibile, ma sta succedendo proprio questo. Le istituzioni, le corporation, i governi capiscono e manipolano il mio regno interno, ciò che ho dentro. Prendiamo per esempio la medicina, no? Sappiamo che adesso sta andando, quindi non parliamo di futuro, parliamo di presente, no? E ci sono tanti sensori biometrici che vengono sempre più utilizzati in medicina, a volte anche in situazioni non patologiche, cioè nella vita di tutti i giorni. Questi sensori registrano costantemente dati su di noi, e li inviano ad un laboratorio centrale che li utilizza per prevedere quello che potrebbe succederci. Ci sta avvenendo l'influenza, ci sta avvenendo il cancro, ci sta avvenendo il morbo di Alzheimer. Questo lo possono capire molto prima di che noi sentiamo qualcosa che non va dentro noi stessi, e quindi potrebbero raccomandarci dei trattamenti appropriati. Potrebbero raccomandarci una dieta, potrebbero raccomandarci delle medicine, potrebbero raccomandarci una condotta di vita, e questo lo potrebbero fare conoscendo i dati che arrivano dal monitoraggio delle nostre biometrie, e lo potrebbero fare anche perché magari conoscono il nostro DNA, conoscono il modo in cui è fatto il nostro fisico, conoscono la nostra personalità. Stiamo parlando di tutte cose che oggi essi conoscono, e quando diciamo essi, chiaramente ci riferiamo a tutti i giganti del cosiddetto big data, dei big data algorithms, degli algoritmi per big data. Ebbene, uno può dire: io però rifiuterò questa cosa, non mi piace, non ci vedo del marcio dentro, non voglio dar retta a chi mi dice che mi sta avvenendo il cancro, non voglio dar retta a chi mi suggerisce un tipo di dieta, rifiuterò di occuparmi di questo. Bene, potrebbe succedere che magari l'assicurazione medica diventa invalida se tu ti rifiuti di osservare ciò che ti viene detto, oppure può darsi che il tuo capo ti licenzi. Queste sono molto concrete, queste cose potrebbero succedere se quei dati vengono inviati al capo o all'assicurazione medica. Queste sono cose che potrebbero succedere. Ok, abbiamo fatto una lunghissima tirata, direi che ci possiamo concedere una piccola pausa. Vi faccio sentire una canzone. Ed ecco un pezzo di Emilio Stella, A testa alta. Marta è una ragazza piena di coraggio, con la laurea in tasca sta alla cassa e batte il prezzo. Scende ancora in piazza, crede nell'impegno. Esce con le amiche, si è pagata anche l'affitto. Peppe cerca un sogno nel gioco d'azzardo, nei cantieri sgobba e quando torna a casa è stanco. Oggi è più contento perché ha fatto ambo, porterà sua moglie a cena fuori per un giorno. A testa alta, gli eroi della giornata, a testa alta, conquistano la vita, fieri come fiori cresciuti sulla strada. A testa alta, comincia un'altra sfida. Nadia è una donna che si asciuga gli occhi, stacca dal call center, stende panni e lava i piatti. Non ha più il compagno, ma nei suoi tre figli trova quella forza che la fa andare avanti. Mario ha quattro denti, ma sorride spesso. C'è chi dice furbo e chi lo crede solo matto. Parla un po' con tutti e grida: sono ricco. Finché al mare il vento e questo cielo come tetto. A testa alta, gli eroi della giornata. bar che non chiude quasi mai, banche contro oro, sale slot e benzinai, schiere di serrande, di lampioni e falsi dei, centri commerciali e succursali di usurai, dei giardini verdi circondati da ringhiere, tra le paraboliche e le croci sulle chiese, bande criminali, comitati di quartiere, gente che resiste e che continua a camminare. A testa alta, gli eroi della giornata, a testa alta, conquistano la vita, fieri come fiori, cresciuti sulla strada, a testa alta, comincia un'altra sfida. E eccoci, torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Siete a Entropia Massima, stiamo parlando di intelligenza artificiale, di big data e di libertà. In questo secondo pezzo di trasmissione parleremo del dramma della decisione. Essere o non essere, da sempre questo è un dramma che accompagna l'uomo, no? Abbiamo detto che tutti i processi biologici possono essere convertiti in informazioni elettroniche. Ecco, l'altra cosa che aggiungiamo è che oltre a poter essere analizzate, possono essere immagazzinate, quindi sono lì per sempre, sono nelle mani di qualcuno. Tantissimi dati, tantissima potenza, ed ecco che io riesco ad hackerare i desideri, le decisioni e le opinioni della gente. Riesco a sapere chi sono gli individui meglio di loro stessi. Riesco a conoscere le persone meglio di quanto esse conoscano se stesse. Per esempio, prendiamo una scelta che una persona si trova a fare tendenzialmente nel suo periodo adolescenziale, e cioè le sue preferenze sessuali. Supponiamo che ci sia una persona che ha delle preferenze gay, diciamo così. Che cosa si può fare? È possibile che queste preferenze siano già note a qualcuno, per esempio a chi l'ha osservato da quando è nato e che ha osservato tutto quello che ha fatto, che ha detto, le persone che ha sentito, le cose che ha preferito, le scelte che ha fatto, no, su internet. E quindi è possibile chiedere, invece di chiedere a se stessi, uno potrebbe chiedere a Google di dirglielo se è gay o no. Dice, vabbè, ma questo non mi piace, non mi interessa, no? Io non voglio chiedere ad Amazon, ad Alibaba o alla polizia segreta se sono gay, vorrei scoprirlo da solo. Giusto, questo è corretto, però non ti preoccupare che tanto loro lo sanno comunque, e non solo lo sanno, lo comunicano anche alla Coca-Cola. Così quando ti verranno proposti, diciamo, degli spot pubblicitari della Coca-Cola, sapranno già che magari ti dovranno dare un ragazzo o una ragazza senza maglietta in seconda dei casi. Quindi non sai, ma essi sanno, e quello che essi sanno vale milioni. Ecco, pensate a cose più semplici come i film. Ora, in molti si sono fatti l'abbonamento a Netflix, per esempio, no? Tanto per dirne uno. Ci sono migliaia di titoli, quindi immaginiamo degli amici si incontrano, vogliono vedere un film, ma non c'è accordo chi gli piace la commedia, chi vuole un thriller, chi science fiction, ognuno c'ha la sua. Come si fa a decidere? Beh, un algoritmo potrebbe aiutarti, ed è esattamente quello che sta succedendo, aiuta i singoli, aiuta i gruppi, perché spesso anche gli esseri umani non dicono tutto di se stessi, cioè essere sinceri a volte è difficile, quindi uno può anche nascondere delle cose, no? Per esempio può nascondere che non ha compreso una battuta di un film di Pulp Fiction per non fare una brutta figura, no? Per dire una scemenza qualunque. Questo però può essere risolto perché collezionando dati in tempo reale, sia sulle scelte che ognuno ha fatto no? nel suo privato, ma anche per esempio vedendo i movimenti degli occhi o come si muovono i muscoli facciali. Quindi se ci fosse una telecamera attaccata a una televisione, beh, non ci sarebbe sarebbe possibile conoscere cosa piace alle persone e quindi suggerire una scelta giusta per quelle persone. Cosa ti fa ridere, cosa non ti fa ridere. Se per esempio in Pulp Fiction, nella scena dello stupro, c'è stato un'impercettibile tinta di risveglio sessuale, oppure se quando muore sparato Marvin per errore c'è stato un ghigno colpevole o cose di questo genere. In tutti questi casi questa telecamera guarderà i nostri movimenti degli occhi, i nostri muscoli, e saprà veramente quello che noi stiamo provando, sicuramente più di altri, forse persino meglio di noi stessi. Gli esseri umani non possono conoscere la differenza, invece gli algoritmi biometrici sì, la possono conoscere. E questi non solo analizzano, ma immagazzinano, studiano e ci dicono, ci possono dare delle risposte che noi cerchiamo, per esempio cosa studiare, dove lavorare, chi sposare. Domande di questo genere sono domande importanti nella vita di un uomo, no? Possono fare la differenza. Ci sono molti casi in cui una scelta sbagliata su queste tre domande può comportare un'enorme frustrazione, e quindi si può avere la tentazione di dire: ma quasi quasi chiedo a Google, adesso lo dico con una battuta, ma questo può succedere. E quindi dice: vabbè, ma perché quello sicuramente è giusto e invece il consiglio di un amico è sbagliato? No, non è questo il punto. Non è che non sia, che sia per forza giusto, perché magari i dati possono essere pochi, la programmazione dell'algoritmo può essere errata, ci possono essere delle definizioni sbagliate, ci può essere il caos, qualunque cosa, e ti dà un consiglio sbagliato. L'importante è che fa meglio di un essere umano. Cioè non è importante che sia perfetto l'algoritmo, l'importante è che lo faccia meglio di un essere umano. Anche le persone che non conoscono necessariamente a fondo se stesse fanno errori nella propria vita e soffrono esattamente le stesse problematiche. Fanno degli errori perché hanno pochi dati, perché la programmazione dell'algoritmo è errata, o perché ci sono delle definizioni sbagliate, o perché c'è il caos, esattamente come un algoritmo, solo che quello funziona meglio. Non mi piace tutto questo, io non voglio credere a queste cose, non penso che succederà, oppure mi rifiuterò, resisterò, forse potremo farlo, però le persone continueranno, invece andranno verso questa direzione. E qui siamo in quello che Dan McKillan chiama il dominio del probabile. È molto probabile che questa cosa avvenga. E come possiamo noi fermarla? Beh, lui dice: dovremmo ripensare tutto, dovremmo parlare di ciò che è possibile, non di ciò che è probabile. Ok, però intanto parliamo di questo che sta succedendo, perché è importante aprire gli occhi. La stessa cosa si potrebbe dire per la democrazia stessa, no? Che Churchill diceva: la democrazia è assolutamente un metodo sbagliato per me, ma lo è giusto per tutti gli altri, aveva fatto questa battuta, no? E quindi anche in questo caso potrebbe dire la stessa cosa. Ognuno di noi, singolo individuo, dice: non va bene, questa cosa non va bene, questa cosa dei big data no, a me non piace. È difficile che trovate qualcuno che vi dica che gli piace, fateci caso, no? Avete mai sentito qualcuno che dice: sì, ma io sono contento di dare i miei dati a Google, a Facebook, sono contento? Difficile che lo dica, no? Però mano a mano ci affidiamo sempre di più ai consigli che questi ci danno, e quindi la tentazione di affidarci a un algoritmo probabilmente, molto probabilmente, incrementerà nel tempo. Sempre di più ci affideremo agli algoritmi. Beh, io vi confesso che ieri sera mi sono affidato a un algoritmo. Stavo tornando a Roma da una sortita in campagna e facendo sempre la stessa strada, però il navigatore di Google mi aveva detto che probabilmente avrei dovuto farne un'altra, ed ero con la mia famiglia, che erano tutti quanti assolutamente contrari a girare a destra, come diceva Google. Diceva: ma dove stai andando? Così vai verso Firenze. Io ho detto: no, un attimo, voglio fidarmi di Google. E meno male che l'ho fatto, perché sono tornato a casa con 20 minuti in più del normale, ma con 3 ore in meno di quanto hanno fatto gli altri che hanno preso la strada giusta, perché c'era un incidente. Quindi questo per dire, no, è un esempio scemo, però mano a mano noi andiamo, che questa roba monta, noi ci fidiamo sempre di più degli algoritmi, e a volte ci conviene, anzi spesso ci conviene. Attenzione però, che tutto questo potrebbe essere usato a un certo punto per manipolare i nostri sentimenti e diciamo le nostre scelte, e quindi può essere che esse vengano guidate e indirizzate in un modo estremamente subdolo. Quindi ciò può dar adito a, ovviamente, pubblicità, propaganda, no? E quindi se andiamo avanti così, no? Continuiamo ad obbedire a questi algoritmi, potremo a un certo punto perdere la stessa abilità che abbiamo di effettuare delle decisioni. Pensate per esempio a quello che è successo in 20 anni, non di più, con il semplice motore di ricerca di Google. Oggi per noi a qualcuno dice sì, vai a googlare, non dice neanche più cerca, no? Vai a googlare, cioè la capacità di cercare oggi è vado su Google, cerco, e la prima pagina di Google è la fonte di verità assoluta, e questo è successo in 20 anni. E questa è una cosa scema, una cosa molto semplice. Ce ne sono anche di più sopraffine che possono avvenire. Quindi dicevamo, per esempio, cosa studiare, no? Noi conosciamo davvero come siamo fatti, conosciamo i nostri punti di forza, i punti di debolezza, che cosa serve per diventare un bravo avvocato e come mi comporto quando sto sotto pressione, sono davvero bravo a lavorare in squadra, tutte domande che servono per capire che cosa uno dovrebbe studiare. Ma ovviamente se uno ha una conoscenza inaccurata dei propri skill potrebbe fare una scelta sbagliata, potrebbe scegliere di diventare avvocato solo perché ha visto qualche film di troppo di Hollywood dove si gridava obiezione vostro onore e pensava che quello significava fare l'avvocato, magari invece non ci aveva capito proprio niente, quello non era la sua strada. Oppure un'altra persona potrebbe dire voglio fare il ballerino professionista, però magari non ha una struttura ossea adeguata per farlo. E allora uno dice, beh, facciamo così, chiediamo a Google, vediamo che mi dice, e magari Google ci direbbe, ma l'assa sta, fai piuttosto psicologia, oppure vai a fare l'idraulico. Quindi le carriere sono un altro di quei punti dove si sta instillando questa faccenda di dare ascolto agli algoritmi. Quindi abbiamo detto le relazioni, le carriere, questo eroe hollywoodiano che deve sempre fare una decisione cruciale, fateci caso, in molti film, no? C'è sempre questa figura, no? Che deve fare una scelta e da quella scelta dipende tutto l'esito del film, no? Il lieto fine finale, il lieto fine che si verificherà dipende da quella decisione che quell'eroe ha fatto, perché quello è l'eroe liberale, l'eroe che deve fare una scelta. Persino a livello religioso questo è vero, no? I cristiani, i musulmani pensano che per la salvezza eterna bisogna fare la scelta giusta. Oggi invece stiamo dicendo che a farci fare la scelta giusta su chi sposare, dove lavorare o cosa studiare saranno Netflix, Google Maps, i social network. Anche le elezioni diciamo potrebbero avere presto un senso assolutamente minimo, non che ce l'abbiano, non ci abbiamo mai creduto troppo, no? A questo meccanismo, però fino adesso tutto il sistema si è basato sul fatto che delle persone votino e quindi questa idea che tante persone, tanti individui autonomi si dibattono all'interno di un'arena dentro la quale devono fare la scelta giusta, no? Oggi invece no, si parla di altro, cioè flussi di dati, organismi come algoritmi biochimici, questo siamo diventati. A noi ci richiedono semplicemente di produrre dei dati, producete dati, se producete questi dati noi vi daremo il modo di fare la scelta giusta, e questo è esattamente ciò che sta succedendo. Quindi siamo come se fossimo un chip in un sistema di processamento di dati, tutto quello che noi facciamo, email, tweet, coordinate, GSE, GPS, relazioni, tutto questo non è altro che un input che noi diamo a questo sistema. Allora a questo punto si potrebbe obiettare, sì, però la scelta non è solamente una scelta dell'ottimo, no? E che sembra questo essere il gioco dell'intelligenza artificiale, l'ottimo, trovare l'ottimo, no? La scelta ottima, quella che è più redditizia, quella che porta più valore, oppure quella che porta meno danno. Non è solo questo, la scelta è anche una questione etica, no? Quindi apriamo un altro tema importante, il tema della scelta etica. E facciamolo allora con un classico della filosofia dell'etica, e cioè il classico sarebbe quello del carrello ferroviario, quindi c'è questo carrello ferroviario che può solo cambiare direzione ad ogni snodo, e lungo i binari ci sono delle persone, in un caso ci sono 5 persone, però se aziono la leva e devio su un altro ramo di questi binari, c'ho una sola persona, quindi posso scegliere se uccidere 5 persone o una persona, no? Quindi questo è uno dei, no? delle diciamo così delle immagini che si utilizzano per parlare di etica nella scelta. Ecco, una cosa del genere noi la possiamo fare oggi in maniera più moderna con i veicoli a guida autonoma. E quindi questa cosa sta già succedendo, è già pronta. Allora, c'è il caso è questo. Se ci sono due bambini che attraversano improvvisamente una strada a grande scorrimento dove c'è un'auto a guida autonoma con dentro una persona, questi due bambini inseguono la palla e se non si fa nulla finiranno sicuramente sotto la macchina e moriranno. Però la macchina può decidere di frenare e di girare. Però facendo questo, siccome ormai sono quasi sotto, si ha una probabilità del 70% che si finisca sotto il tir che sta avvenendo in senso opposto e che quindi la persona dentro la macchina morirà. Quindi questo è un dilemma etico. Che cosa faccio? Uccido i bambini oppure li salvo mettendo a rischio la vita di chi sta all'interno della macchina, no? E questo è una cosa molto concreta su cui si stanno confrontando le persone che stanno progettando gli algoritmi che servono per guidare le auto a guida autonoma. Vediamo come si comporterebbe l'essere umano. Beh, l'essere umano diciamo che usa le emozioni, abbiamo detto i sentimenti, e quindi riesce a fare delle decisioni tra la vita e la morte in tempo molto rapido basandosi sulle proprie emozioni. E quali emozioni può provare un essere umano? Beh, per esempio la rabbia, la paura, l'ansia e tutte queste emozioni abbiamo detto che sono state ereditate da milioni di antenati che sono stati sottoposti al controllo di qualità dell'evoluzione, no? E quindi abbiamo già detto. Beh, però questi sentimenti forse erano buoni nella savana africana un milione di anni fa, ma non necessariamente questo schema comporta un comportamento responsabile in autostrada. E questo non solo non necessariamente è così, ma è proprio che invece è proprio il contrario. Ci sono ogni anno un milione di morti nel traffico, quindi mi sa che qualcosa non funziona nel modo in cui gli esseri umani usano questi questi skill che li portano a prendere delle decisioni sulla vita e la morte basate sulle emozioni. C'è qualcosa che non va, perché c'è un milione di morti ogni anno nel traffico. Allora tu dici: guarda, adesso ti mando uno stuolo di filosofi, di profeti, di preti che ti insegnano l'etica, e così almeno non avremo più morti sulle strade. No, non funziona così, perché il mammifero utilizza le emozioni, l'istinto della savana è quello che prevale, non certamente quello che può insegnarci Immanuel Kant o John Stuart Mill, per citare due filosofi che si sono occupati molto di etica. Ma allora se ne occupano stando in un accogliente laboratorio universitario, discorrendo su cosa è più sensato, giusto, verosimile. Le loro conclusioni non saranno mai attuate da un guidatore stressato in una frazione di secondo, anche perché è difficile ascoltare la filosofia mentre si guida. Però forse Michael Schumacher, per citare uno dei più grandi piloti di sempre, forse lui potrebbe pensare alla filosofia mentre guida. Diciamo che è il miglior candidato possibile Schumacher per pensare alla filosofia mentre guida, sicuramente più di chiunque, più di noi, no? Più di delle persone, delle altre persone, posto che appunto è il miglior pilota del mondo. Ecco, quindi qual è il punto? Gli algoritmi che si utilizzano non sono stati forgiati dalla selezione naturale come per l'uomo, non hanno emozioni o istinti questi algoritmi. Quindi, per assurdo, questi algoritmi potrebbero seguire l'etica molto meglio degli umani. Quindi se noi riuscissimo a codificare l'etica in numeri e statistiche, noi avremmo degli algoritmi che seguono l'etica. Allora potremmo chiedere a Kant, a Mill, di scrivere del codice. Scrivete del codice, sviluppate codice, no? E così ci progetterete una macchina a guida autonoma e lo potrete fare tranquillamente nel vostro accogliente laboratorio universitario, non c'è nessun problema. E state certi che una volta che avrete scritto questo algoritmo e l'avrete messo nelle macchine, le macchine seguiranno esattamente i vostri comandamenti sulle autostrade, diversamente da quello che fa un essere umano. Beh, allora la domanda è: ma voi vorreste sedere in un taxi dove guida un tassista ubriaco, oppure in un taxi dove il pilota è Schumacher e il suo copilota è Kant? Beh, se permettete. Ok, quindi abbiamo questa possibilità, consideriamo l'etica all'interno, no, dell'algoritmo. Quindi bisogna semplicemente scegliere qual è la soluzione giusta, salvare i bambini o salvare la persona dentro. Una volta che abbiamo deciso questo, lo applichiamo all'algoritmo e l'algoritmo lo farà. Allora adesso Toyota e Tesla, che stanno lavorando alle macchine a guida autonoma, dovranno praticamente trasformare un problema teorico di filosofia dell'etica in un problema pratico di ingegneria. E quindi sembra tutto perfetto, no? Oddio, potrebbero ancora esserci feriti, morti, potrebbero esserci delle cause legali, potrebbero esserci delle cause legali contro il filosofo che ha detto che bisognava salvare i bambini piuttosto che contro il filosofo che ha detto che bisognava salvare la persona dentro. Noi non chiediamo a questi algoritmi di essere migliori di quello che farebbe un essere umano, cioè non chiediamo a questi algoritmi di essere perfetti, gli chiediamo solo di essere migliori degli umani. Ecco, un'altra volta ripetiamo la stessa frase: non devono essere perfetti gli algoritmi, devono solo essere migliori di quello che farebbe un essere umano. Non è tanto difficile con le macchine, visto che muoiono 1 milione di persone ogni anno. Se già ne morissero la metà, avremmo fatto un passo avanti. Ok, vi lascio con questo e vi metto un'altra canzone. Stavolta ci ascoltiamo un pezzo di Il Nano, Vado Madre. Ci vediamo presto. Io vado, madre. Se non torno sarò il fiore in montagna che sboccia ogni giorno. Io vado, madre. Farò quel che posso come folgore sulla tortura che mi vivo addosso. Sono l'uragano che sfonda tutte le porte. Sono determinazione che sfida la sorte. Io vado, madre. Perché ho sogni concreti. La mia anima sarà parola per poeti. Bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici. Bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici, bici E ritorniamo in diretta dopo questa bellissima canzone, viene voglia di riascoltarla di nuovo. Siamo quindi nella terza ed ultima parte di questa trasmissione che ci parla di algoritmi di big data e di libertà. Parliamo adesso di colloquio di lavoro. Come sapete, sempre di più si fa ricorso agli algoritmi di big data per decidere chi assumere e chi non assumere. E quindi questo non è, non stiamo parlando di futuro ma di presente. Si potrebbe stabilire, per esempio, analogamente a quanto visto con la macchina, con l'automobile a guida autonoma, di definire degli standard etici. Per esempio, una cosa proprio classica, sappiamo che i selezionatori potrebbero in maniera subconsciente discriminare per razza o genere, e quindi è un tema importante, no, dei colloqui di lavoro, non discriminare sulla base della razza o del genere le persone che vengono a fare il colloquio. Le macchine non ce l'hanno un subconscio, si potrebbe quindi dire alle macchine che devono fare così ed se lo faranno non c'è motivo per cui lo facciano diversamente. Ritornando, diciamo, al tema della macchina, dell'automobile a guida autonoma, è stato fatto uno studio nel 2015. Perché qual è il discorso, no? Riprendiamolo un pochino più da lontano. Noi sappiamo che questi algoritmi stanno espellendo dai lavoratori dal mondo del lavoro, no? Quindi ci sono, per esempio, tassisti, abbiamo parlato di tassisti, ma parliamo anche di vigili, non ci sarebbe più bisogno di loro, perché se un'automobile è obbediente a un algoritmo non c'è bisogno né del guidatore né del vigile. E quindi se uno volesse dedicarsi a uno studio per trovare lavoro in futuro, un consiglio che si potrebbe dare è magari studia filosofia, potrebbe darsi che studiando filosofia si potrebbero aprire delle nuove opportunità future. E certo, poi bisognerebbe anche capire che corrente di filosofia, no, adottare, il conseguenzialista, cioè Stuart Mill, o il deontologista, cioè il Kant, no? Quello che basa tutto, diciamo, il giudizio etico sulle conseguenze delle azioni, o quello che basa il giudizio etico su dei principi deontologici. Supponiamo, adesso mettiamoci nei panni del capo di Tesla, e deve fare questa scelta. Che scelta farà? Farà la macchina che salva i bambini o la macchina che salva il conducente? Magari le farà tutte e due e lascerà scegliere il mercato. Farà la Tesla altruist e la Tesla egoist. Sembra una battuta, ma in realtà è stato davvero fatto uno studio su questo nel 2015. È stato chiesto a delle persone: tu salveresti i bambini oppure salveresti il conducente? E molti, diciamo, hanno detto: sì, io salverei i bambini, secondo me la macchina dovrebbe salvare i bambini. Dice: però cosa faresti se poi dovessi comprare tu quella macchina? Ha detto: no, aspetta un attimo, mi sa che forse mi sono sbagliato, forse è meglio che salviamo il conducente. E quindi questo è successo, no? Immaginiamoci allora noi che acquistiamo questa Tesla che è a guida autonoma, e a un certo punto dobbiamo fare la configurazione iniziale. C'è una serie di spunte che dobbiamo mettere per configurare la macchina e ci dicono: senti un po', ma che devo fare? Devo salvare il bambino o devo salvare il conducente, no? Ci metterebbe in difficoltà una domanda del genere, no? Poi non dipende solo da noi, perché magari abbiamo una famiglia, quindi dovremmo chiedere quantomeno al nostro partner, no? Ecco, questi sono un po' fa sorridere, no? Queste cose fanno sorridere, che è proprio il classico stile di Yuval Harari, no? Però in realtà ci riportano a una concretezza molto, molto vera, cioè che gli algoritmi, le macchine prendono tutto alla lettera, seguono regole, obbediscono alle regole alla lettera. Quindi andiamo incontro a quello che si può chiamare un totalitarismo della responsabilità. Nell'arco della storia ci sono stati sempre tantissimi eccessi dei legislatori, pregiudizi, errori, tutto questo è successo, no? E per esempio nel corso della storia sono esistite leggi che perseguivano gli omosessuali. Per fortuna queste leggi non sono state attuate fino all'estremo, perché altrimenti avremmo avuto delle ecatombi, avremmo avuto proprio, no? Ecco, Ma voi volete davvero un mondo in cui le regole vengono obbedite alla lettera? Cioè, se poi c'è una legge sbagliata, che cosa succede? Questo quindi è il tema della cosiddetta dittatura digitale, no? Spesso nei film si ha paura che le intelligenze artificiali non rimangano